Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. I dati d'ascolto dicono che soltanto, e sottolineo soltanto, 2.758.000 spettatori hanno assistito ieri sera su Rai 2 a Barcellona-Bayern. Aggiungendoci quelli di Sky, io credo che arriviamo grosso modo a 3 milioni, che penso, 3 milioni di persone, di appassionati, che penso siano d'accordo con me nel ritenere che così si gioca in paradiso. Il primo tempo del Barça è stato uno spettacolo davvero raro, di tecnica, di velocità, di eleganza, di aggressività, di convinzione. E il secondo, togliendo rispetto al primo due parametri, la velocità e l'aggressività, è stata una lezione accademica di possesso palla e di difesa del risultato nella metà campo avversaria. 13 gol complessivi in 4 partite, un solo risultato normale, l'1-1 di Villarreal-Arsenal, uno esagerato, quello per l'appunto del Barcellona, due a sorpresa, il pareggio del Porto a Manchester e il Chelsea che sbarca Liverpool. Questo è un po' il riassunto di questa 2 giorni per le partite d'andata. Ecco noi il ministro degli esteri, Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Presente, buongiorno. Presente. Una decina di minuti per commentare questa doppia serata di Coppa, dicevo del bilancio complessivo di 13 gol in 4 partite, di un risultato solo normale, l'1-1 di Villarreal-Arsenal, due sorprese nette a Manchester e a Liverpool e un'esagerazione in positivo quella del Barça, poi parliamo del Bayern a parte. Ora io dico peccato il tabellone, perché dopo aver visto queste 4 partite mi pare che Chelsea-Barcellona in prospettiva sarebbe meglio fosse la finale anziché la semifinale. Ma vista ieri sera sì, io devo anche dirti che non sono così, cioè non mi piace così tanto l'idea di un tabellone che sia già deciso dai quarti di finale. Certo. O lo fai dagli ottavi e allora entri sostanzialmente come fanno nei tornei di tennis, o se no non lo fai. Effettivamente c'è il rischio che dall'altra parte passino Porto e Villarreal, che per carità hanno tutta la legittimità di essere lì e anche di andare in finale. Ricordiamo che il Porto vinse una Champions League infilandosi in un discreto buco di tabellone, trovando peraltro il Monaco in finale a Gelsenkirchen, in quella che probabilmente è stata la Champions League più povera degli ultimi anni. Ma detto questo, viste le partite ieri sera, effettivamente sì, sembra che Barcellona e Chelsea siano onestamente più degne di pensare alla finale. Devo anche dirti che viste nell'arco di tutta la stagione, il Barcellona ha tutti i meriti acquisiti sul campo per pensare di alzarla di nuovo quella coppa, perché ricorda veramente tanto quella che la vinse a Parigi in finale con l'Arsenal. Ci sono state molte critiche ovviamente in Germania alla prestazione del Bayern, c'è molto avvilimento nello stesso club, ha cominciato dal presidente, da Beckenbauer, è passato attraverso Rummenigge e atterrando fino a Klinsmann, che a questo punto rischia, perché oggettivamente 9 gol subiti in 2 partite da Wolfsburg e da Barcellona non possono che fare effetto per uno squadrone come quello tedesco, squadrone se non altro di nome, no? E poi di fatto in questo momento forse le cose stanno un po' diversamente, però è anche vero che se 5 gol contro una squadra tedesca si possono discutere, nei 4 di ieri sera io non so sinceramente distinguere tra i demeriti di una difesa che oggettivamente ci sono, ma gli straordinari meriti di una squadra che ti sgretola giocando a palla a terra a una velocità fantastica comunque. Quando il Barcellona gioca così, io credo che ci siano veramente poche squadre capaci di stare in campo senza prendere degli schiaffoni, perché loro sono veramente dei fenomeni. Non c'è oggi una squadra capace di giocare palla a terra sia in verticale sia in orizzontale, perché anche quando giocano la palla orizzontale lo fanno a una velocità e con una calamita nei piedi che è veramente un piacere. È un piacere da vedere. Sinceramente, quando il Barcellona è in queste serate, davvero bisogna solo sperare che siano che prendano tutti da Henry quando Henry vuole esagerare. Però ieri sera hai visto Henry sul gol che ha fatto, ha fatto veramente l'Henry, cioè ha fatto il giocatore da biliardo e l'ha messa dove ha voluto lui. A volte in situazioni anche più facili Henry magari la mette sul palo o la mette fuori, perché è un giocatore al quale piace quasi esclusivamente segnare gol belli, sì. Se onestamente ci riesce. Però sinceramente, oltre all'assenza di Lucio e all'assenza di Van Buiten, io credo che, però forse è una cosa che abbiamo già detto anche mesi fa, insomma, che Klinsmann a questi livelli ci sia un po' meno di qualche suo collega, insomma, che complessivamente la gestione di Klinsmann, che personalmente mi sembra una persona degnissima e certamente sopra la media in molte cose dal punto di vista della capacità di essere l'allenatore e di essere la guida di questa squadra, mi sembra che stia un po' deludendo, soprattutto per i risultati in casa, perché poi ci sta ad andare fuori nei quarti di finale col Barcellona. Sensazione che condivido. Sull'altro fronte, il commento del Times dice: Liverpool imbrigliato dalla padronanza di Hiddink, che sottolinea come CT della Russia abbia ristabilito le necessarie confidenze e disciplina tattica in una squadra che l'aveva persa sotto la guida di Scolari. Io però noterei che Scolari, insieme a questo, oggettivamente, ad alcune responsabilità, aveva perso anche Essien, se non sbaglio, e in parte Drogba. Guarda, quando si tracciano i profili e i record degli allenatori, bisognerebbe davvero mettere una bella parentesi con scritto con chi hai giocato in quella stagione e chi ti è mancato, perché un giocatore come Sien credo che andrebbe clonato e distribuito un po' a tutte le squadre, perché è un giocatore veramente fantastico. Lui può fare il difensore, può fare il centrocampista, è capace di inserirsi in tutti i modi, può anche far gol, ha un ottimo tiro dalla distanza, ha un'intelligenza che è mostruosa, quindi averlo e non averlo davvero non è la stessa cosa, e vale anche per Drogba. Poi c'è anche una percentuale di fortuna che secondo me Hiddink tiene in cassaforte, perché Ivanovic non è propriamente il giocatore che ti aspetti a questi livelli, che ti fa due gol ad Anfield, e invece complici un paio di nefandezze difensive del Liverpool, lui era lì e ha fatto gol. Insomma, cioè, Ivanovic è un discreto giocatore, molte squadre italiane, il Milan e la Fiorentina l'hanno cercato e sembrava il Milan averlo già preso nella scorsa stagione, poi invece è arrivato il veto, e però comunque Ivanovic non giocava, gioca perché a volte si fa male Alex, ci sono fatti male Bosingue e Paolo Ferreira, e quindi lui, che è bravo a giocare sia da centrale che da esterno di destra, è riuscito a giocare, però è davvero l'eroe per caso, è il Carneade che diventa eroe per una notte. Secondo voi quanto ha inciso per il Barça, domanda un ascoltatore di nome Marione, essersi liberata di quell'ex giocatore che noi milanisti abbiamo presentato a San Siro in pompa magna? Beh, diciamo che la sensazione è quella di un freno a mano tolto, no? Dalla metà campo avversaria per il Barcellona, se pensiamo all'ultimo anno di Ronaldinho nel Barça, se pensiamo invece a quello che Ronaldinho ha dato a Barcellona negli anni precedenti è diverso. Facciamo un passetto indietro rapido per il risultato, la sensazione della sera di martedì, e cioè per questa inattesa flessione anche in Coppa e non solo più in campionato del Manchester. Nessuna squadra britannica ha mai vinto in casa del Porto, e ci sono, mi pare, 5 pareggi e 4 sconfitte, o viceversa, ma insomma qualcosa del genere, nessuna vittoria. Io dico che il Manchester sarà la prima a vincere in Portogallo, però a questo punto è pronostico azzardato. È pronostico azzardato, ma è il pronostico che mi sento di fare anch'io, nel senso che non so se sia più un augurio, perché effettivamente pensare a una finale Barcellona-Manchester piuttosto che comunque una semifinale tra Arsenal e Manchester United è davvero un piacere. Credo che però avrà le sue brave difficoltà, perché comunque questa partita la deve vincere, non può pensare di pareggiarla 3-3, o meglio, può anche succedere, però diciamo che nella casistica è molto più complicato. Io ho visto una squadra un po' molle, un po' distratta, sicuramente non è stata una grande idea quella di giocare con la Aston Villa domenica pomeriggio, avendo la partita di martedì. Qui le buone vecchie usanze italiane di guadagnare anche un solo minuto sarebbero state utili a Sir Alex. Però credo che insomma siamo 60-40 per il Porto, non siamo 70-30 o 80-20, cioè il 2-2 è un risultato difficile, è un risultato complicato certamente, però dopo aver visto Rooney che fa il colpo di tacco per il gol di Tevez, io credo che il Manchester United possa sempre e comunque battere chiunque in una partita secca, e quindi credo che farà fatica, però credo che ce la possa ancora fare. Io credo che sia un atto dovuto, oltre che insomma voluto, ma anche dovuto, proprio visto il silenzio che circonda la povera piccola Udinese, dedicare almeno un paio di minuti a Werder Udinese di stasera. Perché? Ma intanto perché c'è da sperare che non ci sia due senza tre, nel senso che il Werder, prima ancora di eliminare il Milan nel confronto diretto adesso in UEFA, aveva praticamente ha di fatto costretta l'Inter a giocare col Manchester, le aveva tolto il secondo posto in classifica. Se l'era un po' tolto l'Inter da solo, ma insomma diciamo che è già costato caro a due italiane e adesso speriamo non costi cara alla terza, perché in fondo almeno questa rappresentanza, sia pur periferica italiana, in Coppa, insomma, la sua figura la fa ancora. Coppa UEFA è una bella competizione quest'anno. Ci sono molte squadre che sono arrivate avanti in questa fase e credo che si possano vedere delle belle partite. Non c'è il fascino complessivo che ha la Champions, e la Coppa UEFA questo fascino non lo recupererà mai più. Però credo che valga la pena concentrarsi comunque su questa competizione. Io penso che l'Udinese, soprattutto nella partita di Brema, dovrebbe giocare la classica partita alla Milan di Sacchi della fine degli anni Ottanta, perché il Werder Brema è una squadra molto forte quando attacca, ma è debolissima quando riceve, cioè quando deve contrastare gli avversari. Allora, se l'Udinese, che però invece mi sembra una squadra molto intelligente da questo punto, andrà a Brema semplicemente per contenere, io credo che farà male e che rischierà di perdere anche in maniera pesante. Se invece l'Udinese andrà lì per vincere, cioè non per portare a casa un buon risultato per il ritorno, ma deve andare lì per vincere, per cercare di avere la palla il più possibile, ecco che il Werder Brema può scoprire il nervo. Cioè sono quelle squadre talmente forti avanti che vanno attaccate, perché se le è un po' come aspettare e basta il Barcellona. Ma io penso che l'Udinese ce l'abbia come caratteristica, vero, anche tecnica e mentale, questa, e quindi non certo, credo le manca un giocatore come Di Natale, questo è importante, molto punterà su Sanchez, però mi sembra che queste caratteristiche le abbia, questa mentalità. Sì, sono d'accordo, infatti io sono abbastanza ottimista. Questa mentalità pure. Chiuderei questa pagina internazionale, in attesa poi dei vostri interventi nella seconda parte della trasmissione, chiuderei con un bentornato, no? a un vecchio amico, un vecchio giramondo che si chiama Bora Milutinovic e che dopo aver allenato praticamente il resto del mondo adesso va a allenare l'Iraq, sana irachena, e potremmo ritrovarcelo da avversario fin dalla Confederation Cup, cioè da questo torneo 14-28 giugno che si giocherà in Sudafrica. Beh, Milutinovic, che tu soprattutto e io di rimbalzo o di riflesso abbiamo avuto anche la possibilità e la fortuna di conoscere, tra l'altro Gigi non molto tempo fa. No, lo scorso anno, un anno fa. Ah, è già passato un anno. È già passato un anno fa, è un personaggio pazzesco, io adesso non so quale sia il suo grado di attenzione sulla scena internazionale, non so bene che cosa faccia, perché lui gira il mondo, fa di tutto, però è un personaggio di una rotondità completa ed è veramente un piacere pensare di rincontrarlo, e credo che sia un ottimo affare, nel senso che al di là del suo magnetismo personale, della sua cultura, della sua caratura anche tecnica, sia semplicemente un eccellente affare per una federazione evidentemente povera, però insomma uno che ha allenato la Cina, il Costa Rica, ha allenato gli Stati Uniti, ed è curioso la, no, Nigeria, che uno, il Messico, Messico, uno che ha allenato l'America va a allenare anche l'Iraq. Sì, formidabile, siamo oltre veramente il normale. Sì, credo che il calcio mondiale torni ad arricchirsi, se non altro con un personaggio straordinario. I migliori auguri di buona Pasqua al ministro degli esteri, che contraccambio a tutti voi, grazie. Certo. Torniamo in onda. Dunque, intanto ci sono gli arbitri per le partite di dopodomani. Sapete che si gioca il sabato di Pasqua, con la sola eccezione di Regina Udinese, che si giocherà invece il pomeriggio pasquale alle 16. L'Udinese ha chiesto e ottenuto giustamente il posticipo, perché impegnata stasera, ripeto, a Brema in Coppa UEFA. Gli arbitri sono Bologna-Siena Banti, Chievo-Milan Saccani, Fiorentina-Cagliari D'Amato, Genoa-Juventus posticipo delle 20:30 di sabato sera Rocchi, Inter-Palermo Russo, Lazio-Roma Morganti, Lecce-Sampdoria Dondarini, Napoli-Atalanta Tommasi, Regina-Udinese per l'appunto domenica De Marco e Torino-Catania Orsato. Ci sono i primi ascoltatori già collegati. Aggiungerei ancora che secondo il Sun, tabloid britannico di non altissima attendibilità, Ancelotti avrebbe già detto di sì al Chelsea, accettando di subentrare a Hiddink per la prossima stagione, con un contratto triennale, mentre invece Kakà, in un'intervista apparsa stamane sulla Gazzetta dello Sport, ha messo fine alle voci di contatti con il Real Madrid. Nessuno mi ha cercato, ha detto, ma ribadisco il mio piacere, la mia volontà di restare nel Milan. Ha chiamato Luca da Torino, buongiorno. Buongiorno, ho deciso deciso di fare questa telefonata ieri sera guardando il Barcellona, pensando a quella telefonata di ieri di quel tifoso genoano, e mi sono detto, beh, bravini questi spagnoli, non sono il Genoa, comunque sono abbastanza bravini. Sì, se la cavano. Chiaramente la battuta. Sì. Ecco, e poi io sono tifoso della Juve e ho rivisto Xabi Alonso, e mi è venuta una tristezza a pensare alla scelta di quest'estate con un... in Poulsen, in quanto ritengo che Xabi Alonso un gran bel giocatore, e si è visto ieri, ma come altre volte, che chi costruisce le squadre con i giocatori che sanno cosa fare nel pallone, alla lunga questo paga. Chi ha troppi gregari, alla lunga questo lo paga altrettanto. Grazie, buongiorno. Grazie a lei. Beh, sì, questo è indubbiamente vero. Xabi Alonso è stata una rinuncia abbastanza incomprensibile, se non spiegabile, io credo, con ragioni economiche, perché tecnicamente non, una rinuncia appunto che non sta in piedi. Se invece poi parliamo del Barça, perché c'era questo accenno iniziale, questo riferimento iniziale, se parliamo del Barcellona, il Barcellona è una sintesi felicissima, ancora più felice dal punto di vista spettacolare di quella di qualche anno fa del Real. Se ricordate, il Real di Valdano aveva per slogan quello dei Zidanes e dei Pavones. Allora, perché? Nasceva dal fatto che Pavon era uno dei ragazzi simboli della cantera, del vivaio del Real, e Zidane era il simbolo invece degli astri, delle stelle che loro compravano in numero di uno all'anno e aggiungevano e sommavano a sti ragazzi. Nacque un grande Real Madrid che per anni ha dominato il calcio, per la verità più nazionale che internazionale, ma insomma comunque è stato l'ultimo grande ciclo del Real continuativo. E adesso invece è il momento oggettivamente del Barcellona. Da parecchi anni a questa parte credo che la versione che quest'anno Guardiola ha perfezionato sia in assoluto la migliore, la più spettacolare, degna di quella di Cruyff di una quindicina, di ventina d'anni fa. Tocca a Enzo da Bologna, buongiorno. Buongiorno, auguri per la Pasqua, tifoso viola in Italia e internazionalmente del Manchester, scusi questa premessa. Uh-huh. E dicevo solo questo, io preferisco che eventualmente il tabellone abbia fatto questo scherzo per Barcellona-Chelsea in eventuale semifinale, perché almeno si vedono due belle partite anziché una sola, casomai, se si vedesse in finale, perché le finali, quando sono secche, spesso sono un po' bloccate anche, perlomeno questa è un'opinione mia. La ringrazio e la saluto. Grazie a lei, ma io credo che si siano già visti dei bei quarti di finale, da questo livello in su è abbastanza, succede ogni tanto, ma insomma sono rare le partite deludenti, è più facile che siano partite da bella a entusiasmante. Ce ne sono state ieri sera due decisamente entusiasmanti, anche per l'andamento, non solo per la qualità. Io credo, ripeto, il primo tempo del Barcellona è da cineteca, il secondo tempo è da modello di riferimento per lezione di possesso palla e di come dire, e di difesa attiva nella metà campo avversaria, perché nel secondo tempo il Barcellona ha fatto possesso palla perché vecchia regola, la tieni tu e corri meno pericoli che non se ce l'hanno gli altri, l'hanno fatta girare come maestri veramente, ma non in maniera sterile o stucchevole, in maniera anche divertente e spettacolare, sottolineata dagli orari del pubblico, che su 4-0 vengono più facili, ma sono pur sempre significativi. C'è un messaggio che volevo rispondere. Dice: sbaglio se dico che in questi giorni non ho mai sentito parole di conforto alle popolazioni d'Abruzzo da parte di allenatori, calciatori. Vivono in un altro pianeta, poi ci si meraviglia se questo spettacolo ci sta stufando. L'ha scritto Gabriele da Torino, non sono per nulla d'accordo con lei, perché è vero che ci sono state poche parole, ma ci sono stati molti fatti però in compenso. Praticamente tutte le società di Serie A hanno già devoluto l'incasso della partita prossima Ventura, cioè di quella in programma sabato, a totale beneficio delle popolazioni terremotate. Altre iniziative sono state assunte, altre ancora sono allo studio. L'AIC ha aperto una raccolta di solidarietà tra tutti i suoi iscritti, la Lazio comunica proprio in questo momento di aver dato in là una raccolta di fondi pre-derby. Mi pare che il calcio abbia fatto sentire la sua voce, se poi l'ha fatta sentire in maniera sommessa, ripeto, badando più alla sostanza che alle parole per una volta, questo mi sembra un titolo di merito anche maggiore. Mario da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. buongiorno e auguri di buona Pasqua a tutti. Sì. Io sono un tifoso dell'Inter, ahimè, e volevo dire una piccola cosa. Guardando la partita di Porto, Manchester Porto l'altra sera, mi è venuto lo spontaneo dire che non ci vogliono nomi altisonanti e grandi proclami, con una bella squadra che va su e fa la sua partita dignitosamente, mettere in difficoltà il Manchester, pur se magari il Manchester non è più il Manchester di qualche mese fa. La ciliegina sulla torta l'ha messa Mariano Gonzalez, che è stato uno scarto dell'Inter nel famoso scambio con Quaresma. Ecco, tutto quello che volevo dire, e me ne dispiace molto di questo. Me l'immagino. Più di un ascoltatore di Ferinterista ha scritto in questi due giorni, ricordando per l'appunto che di tutto quel Porto che si è ammirato l'altra sera sul piano anche delle individualità e non solo collettivo, di tutto quel Porto Mourinho, conoscendoli bene, all'Inter ha fatto arrivare Quaresma. Effettivamente mi sembra non poco significativo tutto questo. Però così è andato ormai. Tra l'altro noi abbiamo anche qualche frammento da sentire poi in queste fasi, e potremmo cominciare, contrariamente alla scaletta prevista, potremmo cominciare proprio da Mariano Gonzalez, l'ex palermitano, che ha rilasciato, visto che parla italiano, ha rilasciato un bel po' di interviste dopo questa impresa del Porto a Manchester. In particolare si è espresso sull'importanza di questo pareggio, di questo 2-2 a Manchester in vista del ritorno in casa. Per noi è molto importante, innanzitutto di non perdere qui, la fortuna di aver marcato due reti è molto importante per noi, perché antes del gioco molta gente pensava che chiamo a perdere qui, però abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto dei gol e abbiamo fatto un risultato molto importante, e ci prepariamo di altra maniera, con altra mentalità, e per ricevere il Manchester in casa. Ah certo, sarà una partita completamente diversa, questo sì. Con tutto rispetto per il Barça e per il Bayern, io credo, scrive Andrea La Parma, che una squadra italiana di medio-alta classifica non avrebbe mai preso 4 gol del Barça. Io penso che col Barça di sera ne poteva prendere anche di più. Poi magari potevano essere più pungenti in contropiede, ma non abbiamo più noi le grandi difese d'un tempo. E io penso che con la velocità... con le combinazioni di velocità che il Barcellona ha esibito non soltanto ieri sera, ma in particolare ieri sera, credo che non sarebbe stato facile per nessuno resistere. Poi se ne poteva prendere 2, 3, 4, poi poteva esserci un rigore in più, poteva non esserci, ma insomma era un Barcellona oggettivamente da spellarsi le mani. Sentiamo il commento del suo mentore di Guardiola a questo proposito. Il rigore l'arbitro non ha voluto fischiare, sì che devo trattenermi, non mi posso comportare così, ma sapevamo che era un momento chiave della partita, eravamo 2-0, penalti, rigore chiarissimo, ci mettevamo 3-0, quindi questa ragione, una buona domanda per l'arbitro per la quale non ha fischiato. Abbiamo fatto una buona gara, dobbiamo continuare così, la umiltà soltanto ci porta a fare queste cose. Grandi attaccanti, grandi giocatori che si mettono a disposizione della squadra, l'unico segreto, il primo è questo, poi la qualità di loro. Il Barcellona acquista buoni giocatori a livello tecnico, e questa è la ragione. Sì, in effetti Guardiola, con quelle proteste molto plateali per quel rigore non dato su Messi, ma non tanto per il rigore non dato secondo me quanto per l'ammonizione a Messi, perché l'arbitro può anche pensare che Messi vada un po' a cercarlo quel rigore, può non avere tutti i torti, ma non può ammonire per simulazione un giocatore che viene palesemente sgambettato dall'avversario. Poi in maniera volontaria e involontaria lo sgambetto c'è e non esiste l'ammonizione. Poi Guardiola in un'altra intervista ha spiegato e ha detto: ma questo è un cartellino che rischia di pesare, se poi io in semifinale o in finale mi trovo senza Messi dico poi grazie a quest'arbitro. E in questo credo che abbia ragione, che sia comprensibile il suo sfogo. Non è nella sostanza non sono accettabili indubbiamente i modi. Francesco in Ira a Milano, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Complimenti e grazie per la disponibilità. Senti, mi riferivo al Barcellona. Se ricorda, un paio di giorni fa chiamò un ascoltatore da Genova. È impossibile che ricordi. Tra l'altro vantava anche sponsorizzazioni prestigiose. E faceva questo paragone, diceva: come mai non c'è riscontro nel calcio spettacolo del Genoa, e lei giustamente parlò del Barcellona. Ecco qui semplicemente il risultato, cioè se fossimo come mentalità un po' meno faziosi, forse ci accorgeremo che il calcio, il campionato più bello del mondo, è finito da un po' di tempo. Beh, io in Italia, penso. Francesco, dato che non è la prima telefonata, né oggi, ma insomma, diciamo oggi in particolare, che ci arriva di questo tenore, io mi accorgo di una cosa che mi fa piacere: bisogna stare sempre più attenti a delle fesserie in questo programma, anche da parte di chi chiama per intervenire, perché poi queste si ritorcono, mi par di capire. Quella era stata un eccesso di passione, indubbiamente, ma era stata anche altrettanto oggettivamente una sciocchezza. Rieccoci, Matteo da Perugia domanda perché ieri sera ha visto in TV vari giocatori con il lutto a braccio, perché sia Oddo che Tony hanno chiesto e ottenuto dal Bayern di poter portare un lutto al braccio a titolo personale, anzi a titolo nazionale, per la tragedia abruzzese. Mi piacerebbe sottolineare, scrive un altro ascoltatore, che il Barcellona ieri aveva in campo molti giocatori cresciuti nel vivaio, e cioè Víctor Valdés, Pujol, Piqué, Xavi, Iniesta, anche Messi argentino, ma è stato cresciuto in tutti i sensi nella cantera del Barça, perché è stato cresciuto anche di statura con l'ormone della crescita. Insomma, questa è una storia vecchia e conosciuta, ed è una favola del mondo del calcio di oggi, una favola a lieto fine, visto che trattasi oggi ormai con tutta evidenza del numero uno al mondo senza discussioni in questo momento, poi si vedrà nel futuro. C'è Alessio in linea, sentirei subito, visto che abbiamo parlato di Messi e non si può non parlarne, sentirei subito il commento di Messi alla partita con la collaborazione, con la traduzione del collega di Sky. Adesso tutti parleranno del nostro gran primo tempo, ma non è finita, c'è ancora una partita da giocare. Vincere 4-0 in Champions League è una cosa incredibile, non capita spesso, ma siamo scesi in campo determinati, abbiamo lottato su ogni pallone e giocato al massimo delle nostre possibilità. Il 3-1 del Chelsea è un risultato importante che ipoteca la qualificazione, ma contro Liverpool non è mai detto. Certo, subire 3 gol in casa rende tutto più complicato. Dobbiamo continuare così e non pensare che siamo i più forti, altrimenti non andremo da nessuna parte. Dobbiamo rispettare ogni avversaria e continuare a giocare come contro il Bayern Monaco. Visto il caso di Messi ieri sera, scrive Sergio, non è sempre sera di rivedere la diffida per somma di ammonizioni nella fase finale, ma sì, è stato fatto negli europei, per esempio, adesso ci si può interrogare anche sulle coppe. Dura l'ex ed l'ex, poi vedremo se le lex si cambiano, ogni tanto le leggi si cambiano, vedremo un po'. Alessio da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie dell'intervento. Io volevo solo dire che da tifoso interista, fossi Mourinho, mi morderei un po' le mani. Da critico del calcio, direi che probabilmente se si tocca il Dio Quattrino lì in quella squadra si aggiungano dei risultati o dei valori che secondo me nell'Inter in questo momento, ma non in questo momento ora, in questo momento da anni non ci sono. Sì, io credo che insomma gli interisti abbiano diritto a molti rimpianti e abbiano il dovere di molti mea culpa, non i tifosi ovviamente, parlo di chi la squadra amministra e gestisce per quell'eliminazione della Manchester, che sembrava ineluttabile allora e che adesso invece ha assunto tutto un altro colore. In compenso credo che si sia rivalutata l'eliminazione della Juventus in questa fase, perché il Chelsea strada facendo comunque adesso è una squadra che sta dimostrando tutto il suo valore, sicché la Juventus può dire siamo andati fuori da una grande avversaria, più grande di quella che pensavamo, ma è più grande di quella che era allora, perché nel frattempo per esempio contro la Juventus Essien è rientrato appena appena in una delle due partite, oggi Essien è tornato a essere la colonna fondamentale di quella squadra. Tutto dipende sempre dai momenti, ormai i campionati del mondo non li vincono più le squadre più forti in assoluto, le vincono le squadre che stanno meglio in quel momento. Oggi sicuro, forse accadeva anche un tempo, ma oggi accade molto di più, quindi è sempre il momento quello che conta, ovviamente partendo da una certa base di valore. il Real è uscito dalla Coppa addirittura surclassato dal Liverpool, avendo incontrato il Liverpool probabilmente in un momento migliore di quanto il Liverpool non stia attraversando adesso, se no magari andava diversamente. Aldo Siena, buongiorno. Buonasera Garanzini, tanto complimenti per la trasmissione. E volevo fare un'osservazione e volevo sentire quello che ne pensava lei. Allora, io ieri sera ho visto Barcellona-Bayern e tutti dicono che è stata una splendida partita. In effetti è stata una splendida partita, però non è stata, secondo me, superiore a quella che fece il Milan nel 2007 con il Manchester United. Allora, mi chiedevo, siccome ho sentito dire che l'Inter incontra sempre le squadre che sono al massimo della forma, siccome è 45 anni che non vince la Coppa dei Campioni, ok, 45 anni e incontra sempre squadre al massimo e la forma, voglio dire, non è che sarà pochino l'Inter, ecco, tutto qui. E poi una riflessione, la voglio ringraziare per il libro scritto su Nereo Rocco, che bisognerebbe che tutti quelli che hanno comprato quella stupidaggine di libro scritto a Mourinho per rifarsi la bocca comprasse lo suo. La pregherei di non stravincere. Grazie comunque di questo, grazie di questo apprezzamento. Sì, è vero, cioè, c'è differenza comunque tra uscire dal Villarreal, c'è differenza tra uscire anche dal Valencia e soprattutto riuscirne con una indecorosa rissa finale e invece uscire a testa alta dallo stadio del Manchester, insomma, questo credo che sia un dato oggettivo. Poi è vero che il Milan quella sera col Manchester United su un campo tra l'altro zuppo di pioggia giocò una grandissima partita, lei dice ieri sera a Barcellona, però non è che non fu celebrata quella prestazione del Milan, anzi lo fu con tutte le maiuscole del caso, in Italia non solo, perché fu una partita di altissimo livello. Credo che quella di ieri sera del Barcellona lo sia stata almeno altrettanto. Mi piace leggere questa notizia che arriva da Bologna e che è la seguente: a meno di 2 mesi dalla scomparsa della storica bandiera del Bologna è nata l'associazione Giacomo Bulgarelli Campione per Sempre. Tra i suoi obiettivi, realizzare interventi specifici nei paesi emergenti per sostenere la condizione minorile mediante l'avviamento allo sport, promuovere iniziative culturali di informazione e sensibilizzazione per sviluppare la cultura della solidarietà e dello sport. Il tutto, ovviamente, scrive il comunicato, si legge nel comunicato, nel rispetto delle regole che l'uomo e il calciatore Bulgarelli ci hanno insegnato e lasciato. L'idea di questa associazione è nata a seguito della grande maglia rossoblu numero 8 che tutti i cronisti sportivi della città hanno regalato alla curva del Bologna e che i tifosi espongono ad ogni partita casalinga. Il prossimo passo sarà trasformare questa associazione in fondazione e reclutare il maggior numero possibile di soci, con quote che andranno dai 20 ai 150 euro. L'iniziativa presentata stamane alla presenza anche del sindaco Cofferati, di tutta la famiglia Bulgarelli, di tantissimi personaggi del mondo del calcio bolognese e, leggo dalla notizia dell'ANSA, anche dal figlio Stefano, emozionatissimo, che ha ringraziato la città per l'affetto dimostrato alla famiglia di Giacomo Bulgarelli in questi mesi. Marco ha chiamato da Milano, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Volevo ringraziarla anch'io per il suo libro su Rocco, l'ho letto tutto d'un fiato, bellissimo. Grazie. Prego. Volevo farle questa domanda, so che lei apprezza Ancelotti, queste notizie che andrà via, volevo sapere se secondo lei in questo momento il popolo rossonero farà dei cori per trattenerlo come aveva fatto con Sacchi e con Capello. Non lo so, non saprei Marco, non credo, cioè, oppure una parte sì e una parte no, non so. Io credo così che molti segnali indichino che il ciclo è concluso o si sta concludendo, e mi pare che dopo 8 anni sia più che legittimo che qualcosa del genere possa accadere. Credo che in questo momento sia per la società che per lui un prolungamento, non un prolungamento, ma un altro anno per arrivare alla naturale conclusione del contratto sarebbe forse un po' una forzatura. Dopodiché Ancelotti sa che il Milan è casa sua, il Milan sa di avere in Ancelotti un allenatore molto bravo, molto all'altezza, molto inserito, molto di altissima partecipazione anche emotiva alla sua causa, Quindi se per caso la liaison dovesse andare avanti non ci sarebbe nulla di male, ma non credo che sarebbe nell'interesse di nessuno dei due, così a sensazione questo. Poi c'è chi dice appunto che sia già tutto fatto col Chelsea, c'è chi dice che invece sia ancora in corsa per il Real Madrid, c'è chi dice che resterà e ci sono voci anche autorevoli che lo raccontano. Insomma, stiamo a vedere come può andare a finire. Proiettiamoci sul sabato pasquale, sul campionato che si gioca tra 48 ore. E le partite clou sono tre. Mi pare che la principale sia Genova-Juventus e che subito a ruota segua il derby di Roma, senza trascurare Inter-Palermo, perché l'Inter il campionato lo ha praticamente chiuso a patto di non scivolare in uno degli ostacoli medio-alti che ancora si trovano sul suo cammino. Uno di questi indubbiamente è il Palermo. Sentiamo il Genoano Ferrari sulla lotta per il quarto posto. Non è vero quando sento dire noi non perdiamo nulla se non arriviamo quarti, perché forse non abbiamo le necessità che possono avere le altre squadre come il Milan, la Fiorentina o la Roma. Però io credo che se il Genoa dovesse arrivare quarto cambierebbe la prospettiva della società, come cambierebbe la prospettiva dei giocatori. E credo proprio anch'io, e credo anche che sarebbe un risultato talmente storico che tutto potrebbe un pochino cambiare. Non facciamo in tempo credo a sentire la vigilia derby di De Rossi, la vigilia del derby romano, e allora con i migliori auguri di buona Pasqua da parte mia, un grazie a tutti voi, un grazie a Gigi Borghi in redazione, a Filippo Aureggi in regia, vi lascio al giornale radio.